Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Andrea Bruciati del Ville Film Festival per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ben trovato. Buongiorno e grazie dell'invito. Io ho sempre creduto nell'arte in movimento, quindi il cinema è sempre stato un modo per riaggiornare un linguaggio legato alla bellezza e all'identità nel nostro immaginario, quindi sono usciti dei film molto interessanti e grazie di questa opportunità, di questi 5 che ho dovuto selezionare, insomma. I film in questione sono di Crialese, L'immensità. L'altro è Piccolo Corpo di Laura Samani e il terzo invece era Memoria di Apichatpong Resetakul e il quarto è Il Signore delle Formiche di Amelio, mentre il quinto era Everything Everywhere All at Once di Van Scheinert. Sono dei film che in qualche modo rimandano a quello che secondo me è una sensibilità quasi legata appunto alle riflessioni di Pasolini sul cinema di poesia. A me interessa sempre molto più la struttura che il contenuto del film. Voglio essere portato in un'altra dimensione visionaria e archetipica nello stesso tempo, quindi mi piace quando i registi in qualche modo, dando pochissimi segnali anche visivi, mi aprono un altro mondo, un altro universo parallelo. Quindi questi film, soprattutto in quello di Resetakul, che è un artista che seguo ormai da più di 10 anni, e in quello della Samani, Piccolo Corpo, ho trovato questa ancestralità, questo tornare agli elementi primari che in qualche modo però hanno questa aura, questa spinta assolutamente in avanti, pur essendo fortemente radicati su una basilarità nel linguaggio cinematografico. Per quanto riguarda Il Signore delle Formiche, sicuramente è stata una prova veramente straordinaria dell'attore, del giovane Leonardo Maltese, che mi ha convinto assolutamente. Mi è piaciuta veramente questa poesia che ho ritrovato veramente in una interpretazione straordinaria per un attore che non conoscevo. E l'altra è di Crialese, anche lì quest'idea di una diversità che proviene da un altro mondo, proprio perché non si hanno gli strumenti per poterla decifrare. Mi ha lasciato questo sapore un po' d'antan, ma allo stesso tempo veramente una freschezza, una leggerezza che io cerco assolutamente quando vado al cinema, perché vorrei rintracciare questi elementi, questi segni quasi di una sorta di lirismo, di questa fragilità che è anche ricchezza, però anche bellezza. E per quanto riguarda Memoria di Resetakul, continua il suo discorso, la sua narrazione fatta di pochissimi elementi, di ricerca proprio di un passato che diventa proiezione e seme per il futuro, ed è un autore che a me sempre interessato tantissimo. Sono contento che finalmente sia assurdo ad essere considerato uno dei massimi registi a livello internazionale. Mentre per quanto riguarda forse l'ultimo, quello di Van Scheinert, mi è piaciuta proprio questa idea di aprire a mondi paralleli, a questo discorso del metaverso, non solo. Mi ha intrigato, come negli altri, questa capacità di metamorfosi continua, pur rimanendo ferma l'identità della protagonista in questo caso. Quindi quest'ultimo film mi è piaciuta tantissimo, ovviamente la sceneggiatura e il fatto che abbia sollecitato anche la mia curiosità intellettuale, oltre che, come per gli altri, una grande adesione sentimentale. Quindi credo che questi siano stati 5 film che ho avuto la fortuna di non perdere e che volevo segnalarvi. Tra crollo degli spettatori in sala e piattaforme, qualche riflessione e impressione su dove stia andando il cinema come fruizione collettiva? A me piace il fatto che il cinema possa articolarsi su piattaforme diverse. Credo che siano delle esperienze differenti, ma allo stesso tempo, laddove c'è qualità nel progetto film, credo che possano anche avvicinare anche dei pubblici diversi con delle modalità diverse. Quindi, a mio avviso, è comunque il fatto che vengano arricchite le modalità di fruizione dell'arte cinematografica, io lo trovo comunque positivo. Ecco, per me il problema è se ci sono buoni film o no in sala, nel senso che va da sé che una situazione pandemica ha fatto sì che ci fosse una lontananza, che ovviamente non si possa pretendere dall'oggi al domani un ritorno nella collettività della fruizione del cinema. Però ritengo che film di interesse, magari, ecco, certo, mainstream, possano in qualche modo rifar circolare una voglia di andare anche fisicamente al cinema. Il fatto di poterne fruire alcune realizzazioni su piattaforma a casa o su device o comunque in altre modalità non lo trovo limitativo. Laddove c'è arte, penso che poi ci siano anche delle modalità adeguate per poterle esperire, quindi ritengo che, come noi facciamo a Tifri col Ville Film Festival, si debba in qualche modo allargare e diversificare l'offerta, proprio perché comunque la seduzione dell'immagine in movimento, a mio avviso, sarà in peritura, cioè è sempre soltanto qualcosa da riaggiornare nel nostro vocabolario visivo. A risentirci nel corso dell'anno e buon 2023. Grazie anche a voi e buon lavoro e viva il cinema. Con Giona Nazzaro del Locarno Film Festival per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Giona, ben trovato. Ben trovato te Federico, ben trovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Prima di tutto una parola su Avatar. Assolutamente incompreso, nonostante gli incassi straordinari e nonostante i mezzi straordinari che ha messo in campo. Un film che dice molte cose su come sta cambiando il nostro modo di pensare e vedere il cinema e di come l'esperienza stessa cinematografica si è messa in gioco. Trovo abbastanza sorprendente che di fronte a un'esperienza così profonda, radicale, si parli di approssimazioni di sceneggiature, come se i primi film dei Lumière fossero dei capolavori di scrittura. Quindi si nota sempre un certo distacco, proprio critico, tra le punte più avanzate del cinema, in questo caso Cameron, e una certa arretratezza proprio ideologica, di pensiero, della critica. Ma vabbè, è così, insomma. Cameron ha fatto, a mio avviso, un lavoro notevolissimo di grande teoria filmica e cinematografica, e per questo motivo andava senz'altro segnalato. Spielberg è senz'altro il film dell'anno. Nessuno come Spielberg riesce a fare il cinema cosiddetto classico e sembrare sempre infinitamente contemporaneo. E quindi, al di là dell'aneddotica, è la vera storia di Spielberg, non lo è, cosa che in realtà non conta, anche se in realtà ci sono vari elementi che permettono di capire che si tratta di una rielaborazione di cose biografiche sue molto sentite. Quello che sorprende ancora una volta è la straordinaria libertà del gesto cinematografico che probabilmente solo Scorsese possiede oggi in egual misura. È un film di una complessità davvero impressionante e allo stesso tempo di una magnifica leggerezza, con probabilmente il più bello omaggio mai fatto al cinema di Brian De Palma, in un modo che De Palma probabilmente non sarebbe mai stato in grado di fare, il che è anche abbastanza ironico. Il film di Alexander Sakurov per me va nella stessa categoria di Avatar, perché si tratta in entrambi i casi di due riflessioni sul dispositivo di riproduzione cinematografico. E sono entrambi due film che si pongono il problema dell'immagine del cinema. E sia Sokurov che Cameron si pongono il problema di come utilizzare la tecnica e di cosa cambia nella percezione della storia quando cambia la tecnica e il dispositivo di riproduzione. Così come su Cameron ci sono stati degli equivoci, ci sono stati degli equivoci anche su Sakurov, dove si è parlato impropriamente di tecnologie digitali, laddove lui ha fatto un lavoro completamente diverso a partire da archivi storici di una ampiezza spropositata, e quindi è come se il suo film avesse riprocessato la possibilità stessa di raccontare e mettere in scena la storia, e non ha nulla a che fare con gli accorgimenti da app che si trovano gratuitamente in giro per fare i nostri videolini di pochi secondi. E in qualche modo il film di Sakurov è stato vittima di questa banalizzazione del pensiero rispetto alle immagini, però si tratta di uno straordinario lavoro critico e politico rispetto all'ascito del XX secolo e all'ascito dei totalitarismi e soprattutto rispetto alle responsabilità delle cosiddette democrazie liberali, non necessariamente soprattutto, sono cose che vanno insieme, per cui da un lato i totalitarismi, dall'altro l'incapacità a volte voluta di non prendere sul serio le minacce. Quindi insomma il film di Sakurov è un film che ci ritroveremo probabilmente anche fra 50 anni a discutere, visto quanto è avanzato e quanto è contemporaneamente così a ridosso dell'oggi. Esterno Notte è probabilmente l'ennesima dimostrazione dello straordinario stato di benessere dell'immaginazione di Bellocchio. Esterno Notte è una rielaborazione fantasmatica di un trauma collettivo, non è il ritratto documentaristico e storiografico né di una generazione né di una classe politica né di un paese, ma è una sorta di proiezione astratta eppure dettagliatissima, espressionista ma realista di un trauma che il paese ha vissuto, un trauma le cui conseguenze continuiamo a vivere come rimosso o come elaborazione che non c'è stata. E di tutto questo si occupa il film di Bellocchio, che è un'opera assolutamente maggiore, forse la più importante opera mai prodotta dal cinema italiano sul fenomeno della insurrezione armata. Ed è un film di una complessità straordinaria e anche lì toccato dalla grazia di un sapere cinematografico che ormai è assolutamente libero e privo di contrappesi ideologici o sovrastrutturali. Nostalgia, parliamo di un'altra opera maggiore del cinema italiano in cui Martone conferma tutto quanto fatto sinora in un momento di grande felicità creativa, due film e uno spettacolo molto impegnativo tutto nello stesso anno, un film maggiore come Nostalgia, una riflessione sull'esilio da Napoli inteso come luogo del pensiero, dell'anima, di un'appartenenza sempre conflittuale, allo stesso tempo una Napoli mai vista così, quindi proiettata quasi come un'immagine di una possibile Europa del futuro da qui a 60 anni. una specie di noir esistenziale, un film nel quale Martone gira con una leggerezza inaudita. Anche qui credo che la parola chiave sia sempre leggerezza, intesa come mancanza di intenzionalità esibita o sottolineata. E avendo visto Nostalgia almeno 4 volte, posso dire che si tratta di uno di quei film che resistono tranquillamente alla visione ripetuta e anzi permettono di scoprire dettagli e elementi sempre nuovi. Poi c'è Bones and All, Luca Guadagnino. Beh, Luca continua a essere tra i cosiddetti nuovi cineasti, quello sempre più sorprendente. Luca Guadagnino è come se volesse ogni volta ricominciare da capo ed è questo rischio che prende, assolutamente rigenerante, perché con ogni film si sposta in avanti, si muove di lato, risulta sempre imprendibile. E quindi Bones and All è un film profondamente suo, ma è anche totalmente diverso da tutto quello che ha sempre fatto. Ed è questa discontinuità autoriale che trovo estremamente bella e entusiasmante nel suo cinema. Gionna, ti chiedo anche qualche tua considerazione, impressioni sul cinema come fatto sociale. Il cinema come fatto sociale ormai ha perso molto del suo impatto, no? Il cinema ormai è ridotto quasi esclusivamente alla sua presenza nei festival. Non a caso i festival sembrano più che mai diventati il luogo deputato della presenza del cinema nel mondo. Ed è tutto questo molto paradossale, perché raramente il cinema italiano è stato più ricco di talenti, a partire dagli attori, ma anche dai direttori della fotografia, ai registi. E ci troviamo di fronte a questo paradosso in cui c'è il cinema, ci sono le storie, ci sono le strutture, c'è la diversificazione industriale del prodotto. Odio ovviamente usare prodotto nei confronti del cinema, stiamo facendo un argomento di tipo industriale, e paradossalmente viene a mancare quel pubblico che una volta chiamavamo pubblico popolare, ma inteso come espressione di un paese che andava al cinema. E quindi ci troviamo un po', ma è una cosa che condividono tanti paesi, ci troviamo di fronte a una grande vitalità creativa, di fronte anche alla presenza di molte strutture che sostengono la produzione, con un progressivo ridursi del pubblico classico del cinema. Che poi i festival siano super frequentati e super desiderati è un'altra cosa ancora, perché fa parte di questo processo di diversificazione della funzione, delle finalità e della posizione, del ruolo del cinema. E quindi questo è abbastanza curioso, è un fenomeno storico che non significa ovviamente la fine del cinema, significa un riassetto della filiera dell'audiovisivo ed è un processo in atto. È troppo presto per dire è bene o male. Dal mio punto di vista privilegiato posso dire che non credo che questo processo si fermi o termini, credo che questa mobilità sarà la caratteristica dell'industria dell'audiovisivo per moltissimo tempo, sarà la cosiddetta nuova normalità. Il punto ovviamente è capire come salvaguardare posti di lavoro, la distribuzione, l'esercizio e così via. Questa ovviamente è la grande sfida. Quindi ci troviamo in una situazione, dal mio punto di vista, davvero paradossale, cioè di una straordinaria salute del cinema, sia quello di grandissimo budget, al di là di quello che si può pensare, però vedere il fatto che esca un Avatar è chiaramente la prova che anche il cinema a grandissimo budget sta bene, e il cinema, quello europeo, d'autore, se si pensa a un film come Godland, per esempio, un film come After Sun, oppure i film che abbiamo discusso, ne sono credo la prova. Giona, ci sentiremo nel corso dell'anno. Un abbraccio e buon 2023. Buon 2023 a te, Federico, e alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Con la critica cinematografica Anna Maria Pasetti, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ben trovata. Ben trovato Federico e ben trovati tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Andarossa. Eccoci qua. È un anno difficile, però non sono mancati dei grandi film che forse nella mia cinquina, ecco, un po' dialogano tra loro per trasversalità generazionale, per riflessioni sulla storia, per autobiografie. Quindi, insomma, io partirei con un film italiano, piccolissimo film, che però ha un grande cuore, un grande talento, secondo me, in luce, ed è quindi un'opera prima. Si tratta di Piccolo Corpo, di Laura Samani. È un po' il mio film italiano dell'anno, benché mastodontico Eterno Notte di Bellocchio sia sempre, come dire, il fiore all'occhiello, però vorrei dare la priorità a un'autrice nuova che tra l'altro ha anche portato a casa dei premi, ricordiamo la scoperta europea agli ultimi European Film Awards, quindi insomma mi piace metterla nella mia cinquina. Poi invece, cambiando completamente generazione e quindi andando tra i grandissimi maestri, uno degli ultimi film usciti nelle sale, mi riferisco al Alexander Sapkuro, che ha fatto un'opera certamente dialogante con il proprio cinema, ma forse che supera ancora il suo sguardo, cioè qualcosa di veramente un oggetto misterioso e mirabolante, Fairy Tale. Una fiaba, un lavoro incredibile che mette su degli sfondi antichi ma che in qualche modo sembrano usciti dalle tavole della Divina Commedia, i principali esponenti politici del Novecento, che però hanno segnato la storia principalmente in negativo, quindi parliamo di dittatori, e che dialogano fra loro però con le proprie sembianze, non c'è una ricostruzione finta, non c'è nulla di fake, di fake, l'ha detto l'autore, ma è tutto preso dagli archivi reali delle immagini, prese in movimento di questi personaggi. È un lavoro importante politicamente, storicamente, artisticamente, e sento che sia un lavoro che rimarrà, insomma, nella storia del nostro cinema più recente, ma soprattutto deve rimanere in questo momento storico, deve essere visto, ecco. Poi invece, sempre di grandi maestri parliamo, è uscito quello stesso giorno, Come non mettere, il nuovo, l'ennesimo capolavoro di Steven Spielberg, Fableman, che è la propria autobiografia, che però è un'elegia sul cinema che è vita, cinema puro, in cui lui attraverso il percorso, no, della propria infanzia barra adolescenza lavora sui generi, ogni momento, ogni periodo è un genere diverso, quindi sui propri generi, il maestro proprio dei generi ed è il maestro del cinema americano, popolare, della storia americana. Io credo che sia l'ennesimo grande, grande, grande, grande lavoro di Spielberg. Poi mi sposterei in un territorio ancora politicamente di grande attualità con un altro dei grandi registi che sono impossibilitati a muoversi ormai da anni, sono chiusi dal regime di fondamentalismo islamico nel proprio paese. Stiamo parlando di Jafar Panahi, che ha portato a Venezia Gli orsi non esistono, film bellissimo che mette il proprio corpo, la propria situazione al centro del racconto, mette se stesso, come spesso accade ormai negli ultimi suoi lavori, e lo fa però con una costruzione di meta cinema all'ennesima potenza, sul guardare, sul guardarsi, sull'essere guardato, sul fuoricampo, sulla messa in scena, sulla messa in campo, assolutamente magistrale. È un film che ha vinto anche il premio a Venezia, non il premio della giuria, non mi ricordo bene, però ecco, grandissimo, grandissimo film. Poi vorrei inserire un altro autore statunitense della mia generazione, della tua generazione, più o meno nostro coetaneo, che però è uno forse più grave talento della nostra generazione che conosciamo, Paul Thomas Anderson, che è all'inizio del 2022, del quale è uscito Licorice Pizza, l'ulteriore capolavoro di questo cineasta, capace di far sognare, di raccontare un periodo storico degli Stati Uniti. Siamo negli anni 70, agli albori degli anni 80, una coppia che però non è una coppia, dei ragazzi, un mondo, uno spaziato di universo che sta cambiando, con uno stile inconfondibile, leggero ma potentissimo, ecco. Quindi questi sono un po' i miei cinque. Ci sono altri lavori che avrei potuto inserire, interessanti, molto molto, insomma, dire importanti, ma insomma dobbiamo dover scegliere. Ti chiedo tue considerazioni e impressioni su cosa sta succedendo al cinema come fatto sociale. Tutto deve cambiare per rimanere uguale, insomma, è un po' il Gattopardo. Cioè, il problema del cinema è che, essendo l'arte del Novecento, figlia della rivoluzione tecnologica, non può prescindere da una costante modifica, cioè quasi un discorso filosofico, teorico, no? Linguistico, però è così, noi ci lamentiamo, noi che lavoriamo nell'ambiente, soprattutto ascoltando le litanie e le lamentele degli esercenti, il grande rispetto per il loro lavoro e grande stima anche. Il cinema sì, è un evento sociale, però la sua forza di evento sociale ormai è bilanciata dall'evento individuale, cioè prima era esclusivamente un evento sociale, adesso è a pari merito un evento sociale, un evento individuale, quindi al centro forse del cinema c'è, cioè, il discorso dell'osservazione, no? Della fruizione di un'opera audiovisiva, forse dovrebbe più parlare di audiovisivo ormai che non di cinema, perché all'interno dell'audiovisivo vediamo degli sguardi di interesse artistico. Quando prima ho citato Esterno Notte, è un'opera furia che ha partecipato Sanna, è andata al cinema, ma poi è stata vista, era fatta per essere suddivisa in puntate televisive. La vecchia distinzione tra cinematografico e televisivo, che deve essere un valore secondo me sulla qualità del prodotto, quindi sulla qualità artistica, è più su quello ormai che non sul mezzo su cui verrà poi, a cui è destinato il prodotto stesso. Quindi possiamo avere delle opere cinematografiche per la televisione, possiamo avere degli sguardi televisivi per il cinema, ecco, questo volevo dire. È l'evento sociale, qualcuno potrebbe azzardare l'ipotesi che ormai si potrebbe anche vedere il cinema in casa con un grande schermo e riunirsi nelle famiglie, no? Un po' come era l'evento televisivo quando non tutti avevano la televisione, ma si riuniva nelle case per grandi eventi. Così, o addirittura ancora prima per la radio. Che cos'è la condivisione di un film? Ecco, è un grande tema, mi chiedo se ormai non sia passato. Io sono in ascolto, cioè non ho delle risposte, però mi sto facendo anch'io, ecco, queste domande continuamente. Chi va al cinema? Perché ci va? Quanto ci va? Cosa va a vedere? Ecco, grandi statistiche, i box office sono miserabili. Se non per Avatar, che sì, ha sperato i 20 milioni di euro, va bene, ma è quello che deve fare, è il suo, no, è il suo conto. Però c'è troppi film, forse troppi pochi spettatori, però c'è anche tanta offerta altrove. Quindi molti film e molti autori ormai scelgono di far vedere i propri film esclusivamente magari sulle piattaforme. È una scelta giusta? Sbagliata? Io mi sentirei di tenere sempre la sala, però ecco, vorrei che andassimo un po' oltre questo discorso. Annina, ci sentiremo nel corso dell'anno, buon 2023, un abbraccio. Abbraccio a te, buon 2023 a tutte. Con Pietro Liberati di Trent Film, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022, ben trovato. Grazie Federico, grazie dell'invito. In quest'annata il cinema italiano secondo me ha dato alcuni frutti veramente prelibati per quello che riguarda il cinema d'autore. Tra i 5 titoli dell'anno ho diversi film italiani da citare. Nella prima posizione senz'altro metterei Esterno Notte di Marco Bellocchio. È un film fluviale che andava visto tutto di seguito, tutte le sue 6 ore di durata quasi, e che mi ha veramente molto colpito. ed è un film che credo sia uno dei capolavori di un autore che negli ultimi anni ha fatto molte delle sue cose migliori, che non smette di stupire con la sua lucidità nonostante ormai sia oltre gli 80 anni, quindi ormai è in grado di ogni film di stupire. E con Esterno Notte, veramente andando a toccare nuovamente un argomento che aveva già toccato con Buongiorno Notte, ci ha riservato, credo, veramente una delle più grandi sorprese degli ultimi anni. E quindi questo, secondo me, è un film eccezionale che rimarrà a lungo nel tempo e che, nonostante la durata fluviale, la durata monster, ti viene voglia di rivedere immediatamente dopo che l'hai terminato. Questo direi che è il primo. E un altro film che mi ha colpito moltissimo è stato Ennio di Tornatore, un altro autore grandissimo del cinema italiano, un documentario che in una durata ancora una volta considerevole riesce a toccare tanti aspetti di un maestro della musica che è stato anche un asse portante del cinema mondiale per decenni. E mi ha colpito veramente l'approccio di Tornatore anche alla figura personale di Ennio Morricone, il volerlo inquadrare, cominciare il film all'interno delle sue mura di casa con lui che fa ginnastica, poi mostrarne quegli aspetti che hanno cambiato la storia del cinema, perché questo ha fatto Morricone con la sua musica. È stata veramente una bellissima sorpresa di un autore che tra l'altro io amo molto, perché Tornatore credo che sia, a parte alcune considerazioni che vengono fatte su di lui, perché fa film che vengono considerati anche molto dalla parte del pubblico, io credo che sia uno dei grandissimi autori del nostro cinema di questo tempo. Un altro film che mi ha colpito molto è stato Nostalgia di Martone, che mi dispiace che sia rimasto fuori dagli Oscar, perché è un film in cui veramente Martone, che è un altro grande autore del nostro cinema, fa un nuovo capitolo di una filmografia straordinaria e di cui si conoscono ancora poco magari i primi titoli, quelli dagli anni 90 e i primi 2000. Parlando di titoli stranieri, io direi Sundown di Michel Franco, un film che io ho visto a Venezia e che è dominato da una grande interpretazione di Tim Roth, ed è stato molto poco apprezzato, devo dire, la prima proiezione pubblica, e che invece a me è sembrato grandissimo, perché è un film che ti fa vedere tutta una serie di cose e che ti porta a dare magari dentro di te dei giudizi su un personaggio che vedi che si comporta in una certa maniera, pensi tutto il peggio possibile di lui, e invece il resto del film ti svela piano piano la sua umanità. E quindi è un film assolutamente fuori dal comune all'interno del cinema, di un autore che tra l'altro non conoscevo. E un altro film sempre da Venezia che vorrei citare è Love Life di Koji Fukada, un film che è stato poco visto purtroppo in Italia, era in concorso a Venezia, non ha preso nessun premio. È la storia di una famiglia che viene scossa dalla morte di un bambino e che non ne mostra tutti i lati che normalmente si mostrerebbero nel raccontare una storia simile, quindi un altro film molto fuori dal comune. Ti occupi di distribuzione, volevo chiederti come si sta trasformando il cinema come fruizione condivisa. Mi sembra che in questa annata 2022 la gente sia tornata più volentieri nelle sale, forse non scegliendo un ampio numero di titoli, ma abbiamo notato che insomma questo è successo in molti altri paesi e l'Italia non fa eccezione sostanzialmente. Mi sembra che la fase sia interlocutoria per quello che riguarda la capacità delle persone di scegliere il film su piattaforme streaming, perché credo che ormai la possibilità di scelta sia talmente ampia che ormai ci si confronta tutti quanti con questa modalità di fruizione del cinema. Pietro, ci sentiremo nel corso dell'anno, buon 2023, un abbraccio e a presto. A presto, grazie a voi, grazie a te Federico, ciao. Con Maurizio Di Rienzo, critico cinematografico e direttore di Shorts Film Festival di Trieste, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022, ben trovato. Ben trovati voi, tu con Radio Onda Rossa, Federico, questa tradizione molto interessante, articolata e eclettica di giudizi l'hai instaurata, se si potesse dire così, da tempo. Adesso imperversano, diciamo la verità, abbiamo passato 15 giorni a leggere classifiche sui social che non se ne poteva più per certi aspetti. No, ma lo dico anche autocriticamente, perché è ovvio che diventa un gioco al massacro e alla celebrazione. Detto questo, mi va anche bene, ma io credo che ce ne siano stati tanti film molto interessanti, e nella discriminazione fra sala, vabbè, ma la sala è poi in piattaforma, ok, eccetera, è relativa. Quello che conta è che ci sia una eterogeneità di sguardi molto forte, e poi parleremo anche del pubblico se vuoi. Una delle sorprese chiare ed evidenti, non tanto per il luogo e il cinema da cui viene quello hongkongese, ma proprio per la struttura e la capacità di raccontare universi, meta-universi e metaversi in maniera divertente, rutilante, con citazioni e con inventiva ad alto livello, è Everything Everywhere All at Once, dei due David, dei due registi, David Kwan e David Scheidt. La protagonista Michelle Yeoh, della Tigre e il Dragone, è straordinaria nel moltiplicarsi rimanendo se stessa, nelle diversità dei costumi, delle situazioni, ma totalmente in linea con il suo carattere, il suo personaggio, in tutte le variazioni sul tema e sui luoghi che il film propone, lavorando a tutto campo in una storia di una proprietaria indebitata di una lavanderia a gettoni che deve risolvere il suo problema e tenere alto e forte il suo amore per il marito Waymond, che è il straordinario Jonathan Ke Kwan, che credo andrà verso la nomination, almeno la candidatura all'Oscar non protagonista, da quello che si sente, la meriterebbe anche Michelle Yeoh, è un'annata pazzesca di interpretazioni femminili, vedremo. Insomma, il film è hongkongese in tutti i sensi ed è soprattutto un equilibrio fantasmagorico fra demenziale, fantascienza, thriller, dramma e comicità pura. È un film che fa girare la testa nel senso migliore del termine. E poi L'apprendistato di Steven Spielberg, il film della sua vita, sì e no, come in tante cose in cui da Duel in poi il regista ci ha coinvolto e ci ha introdotto. Quindi The Fabelmans, questi anni 50 e poi dopo quando un bambino 8 anni scopre il cinema, poi tutti gli altri anni in cui da adolescente lo comincia a fare, alla high school e poi fino all'incontro, una delle scene penso più iconiche, probabilmente banale dirlo, con un John Ford interpretato da David Lynch, che è un cortocircuito straordinario anche di cinema. Ecco, The Fabelmans è un film meraviglioso, è un film classico, è un film rivoluzionario a posteriori. Secondo me anche. È un film che mette in mostra attori relativamente poco noti e un ragazzo di protagonista notevole e straordinario. Sì, è un film che ho sentito che alcuni hanno detestato. Sbaglio, completamente, stavolta non dobbiamo dire. Perché è un film che riesce a essere una testimonianza su se stessi, come raramente in un biopic che pure parziale di vita è riuscito a fare un regista sulla propria di vita, dedicata al cinema, che evidentemente continuerà ancora. Quindi The Fabelmans non si discute, non dico che si ama, ma non si capisce, il che è di più. Dopo quello di Garrone e quello di Zemeckis, l'eterno Pinocchio collodiano riesce a essere una materia nuova, completamente nuova, per la genialità di Guillermo del Toro, che è un diverso, un mostro burattino iconico e di valore universale come quello appunto creato da Collodi, e possiamo dire dal Geppetto che è in tutti noi, un sentimento paterno, è appunto questo film qui. È un film realizzato in stop motion e chi l'ha visto sulla piattaforma forse può anche godere dei 40 minuti di documentario in cui si spiegano le motivazioni e la tecnica, senza entrare troppo nello specifico e lasciando l'alone di mistero. Questa specie di capolavoro che ricorda Nightmare Before Christmas a tutto diverso livello e situazione, per carità, però un Pinocchio molto moderno, un Pinocchio che sta a contatto con il mondo di oggi, il sentimento della paternità, del lutto, della perdita e il bisogno di cercare un proprio posto nel mondo se non si è come gli altri, è qualcosa che la letteratura e il cinema hanno sempre scandagliato e continueranno a farlo, benissimo, paternità o maternità si intende, ma in questo caso c'è l'elemento politico, chiaramente politico, del grandissimo messicano Guillermo del Toro, che inserisce l'impatto del burattino umanizzatissimo con un regime che lo vuole irregimentare, il papà di Lucignolo è un dirigente fascista di un paesino italiano, ed ecco che tutto questo assume un certo tipo di valore. Molti personaggi sono messi un po' da parte rispetto al romanzo di Collodi, altri vengono esaltati, delineati e disegnati, è il caso di dire, creati e resi notevoli dal tocco magico poi del regista e dal tocco anche degli animatori che li hanno stop motion, tecnica passo 1, li hanno dovuti animare letteralmente. È un grandissimo film e non si discute, credo proprio che sia anche questo un film abbastanza sorprendente e va considerato fra i migliori film di animazione da molti decenni qua. Poi c'è un film che tale è stato presentato così a Cannes in una versione di 5 ore e mezzo, e parliamo ovviamente di Esterno Notte di Marco Bellocchio, che a 19 anni dal suo Buongiorno Notte torna sul caso Moro, e non solo sul caso Moro, sul caso Italia potremmo dire, in una maniera del tutto nuova, con uno sguardo onnicomprensivo, uno sguardo che è politico, che è soprattutto umano, e riesce a penetrare i misteri di quella storia rielaborando una serie di informazioni e prendendosi, come in Buongiorno Notte, col finale di Roberto Rizka, Moro che si libera dalla sua prigionia in un'alba e cammina a Roma deserta quasi incredulo e sollevato, ecco, si prende altrettante libertà per esemplificare quello che semplice non è mai stato, il rapporto della grande balena bianca, la DC, e tutti i suoi componenti, le sue correnti, all'epoca Cossiga ministro dell'interno, Andreotti era stato capo del governo, Moro stava andando, come sapete, prima del rapimento a parlare in Parlamento, sarebbe stato investito di un certo ruolo, il famoso compromesso storico. Ecco che tutto questo viene lavorato, rielaborato attraverso uno sguardo che non è onirico, ma è come una sorta di caleidoscopio al contrario, in cui la vicenda prende il tono di una tragicità ineluttabile. Il rapporto di Moro con la famiglia, di Moro con se stesso e con i brigatisti. Qui non è che si salva qualcuno e si condanna qualcun altro. Il punto è che era il momento giusto per farlo, e vogliamo citare fra tutti gli attori non soltanto, non il gigantesco, l'assolutamente unico e fondamentale dal punto di vista proprio fisionomico, di tono, di voce, Fabrizio Gifuni, e anche la moglie Margherita Bui, il Fausto Russo Aresi di Cossiga, penso che sia abbastanza indimenticabile, anche quello Zaccagnini di Gigio Alberti, mai a questi livelli interpretativi. Insomma, è un film veramente, veramente importante, tanto importante. Anche a te, Maurizio, chiedo una riflessione, delle impressioni sullo stato dell'arte, sul cinema come fruizione collettiva. Premettendo che mi hai chiesto un quintetto base, io mi sono permesso di mettere una sorta di, nel basket, nel gergo, sarebbe pivot, centro, Pacification, che non è uscito e me ne tolgo, ma lo difendo perché uscirà da qualche parte, uscirà. Allora, voglio dire che altri due film, arrivo alla tua domanda, sono usciti negli ultime settimane e devo dire che hanno colpito, sono i due autori dell'Est Europa, un'Est Europa che purtroppo sta proponendoci dei problemi enormi, e non è un caso che Fairy Tale, il film di Alexander Sokurov dopo la sua trilogia su Moloch, su Hirohito, su Hitler e su Lenin di anni fa, con tre film partito da Moloch in poi, ecco che viene fuori con una favola al contrario, con un lavoro sull'archivio e sulla digitalizzazione che non ti aspetti da un signore così ponderoso, ma anche però invece così immaginifico, intuitivo e straordinario. Quindi quei dittatori, Hitler e Mussolini, che insieme a Churchill aleggiano in questo film come fantasmi di se stessi, i Fairy Tale sono assolutamente qualcosa di mai visto, è tutto un lavoro di tecnica narrativa che è sorprendente. E poi c'è L'Asino, a molti è piaciuto, devo dire è piaciuto anche a me, la favola dell'Asino Eo di Jerzy Skolimowski, del regista polacco, ottantenne, colpo di coda di un maestro del cinema pieno di impeto e metafore, ed è una bellissima storia. Diciamo che gli asini in mezzo ai suoni, come si dice in un vecchio proverbio, siamo noi umani, e quell'asino, interpretato da 7 asini diversi, quell'asino non sa di bestia, sa di umanità, e quindi sono due favole speculari totalmente incastrabili. Allora, lo stato dell'arte. È chiaro che il post pandemia fa capire che si girano film e serie, vabbè, ma si gira cinema in tutto il mondo sempre di più. E non c'è niente da fare, sarà così. Quindi che tipo di pubblico, quanti pubblici, quante piattaforme, quante sale, quanti paesi sono in grado di affrontare tutto questo? Beh, pensiamo che la Francia, per la prima volta da 30 anni pare, nei primi 10 incassi, loro contano i biglietti, le entrées, les entrées, non c'è nessun film francese. Eppure noi in Italia abbiamo comprato, grazie anche a alcuni distributori illuminati come I Wonder, ma anche altri, Lucky Red, piccoli come Want Cinema e Movies in Spite, abbiamo comprato cinema francese agli USA. 40-45 film francesi sono usciti sulle nostre sale nel 22, non vorrei dire. Allora che vuol dire? Vuol dire che se in Francia le cose vanno così, c'è evidentemente qualcosa che sta cambiando. Loro hanno numeri molto importanti. Ma senza far paragoni fra l'Italia e la Francia, che sono lasciato andare, io credo che la fruizione del cinema, che in Italia evidentemente rispetto a tutti gli altri paesi è allo stato brado, perché noi non siamo per niente tornati a certi livelli. Fra i 5 paesi europei con maggiore popolazione siamo quelli in cui le persone al cinema sono tornate in minore misura e percentuale. Beh, comunque c'è paese e paese, c'è continente e continente. Io penso che non c'è tempo di guardare tutto, bisogna guardare le cose che ci piacciono e avere a disposizione del tempo per farlo. Avevamo i DVD, avevamo prima VHS, abbiamo avuto le prime TV libere. In 40-50 anni non è cambiato tutto, sono stati creati altri mondi, come Avatar insegna, nel senso proprio di altre realtà, altri mondi. Allora io credo che il cinema non c'è bisogno di ridefinirlo, 128 anni fa, 127 anni fa è nato, il cinema nel senso di cinema, movimento, immagine di movimento, resisterà per forza per sempre. Durerà un minuto, durerà 6 ore, durerà 3 ore, sarà sulle piattaforme, lo vedremo con la nostra retina guardando una parete tra 15-20 anni di casa, ammesso che sarà una parete sgombra, non lo so. Quello che è certo è che comunque non si può disgiungere il discorso della fruizione del cinema dallo stato non dell'arte ma dell'industria, dallo stato industriale di ciascun paese, e noi in Italia siamo molto indietro. Totalmente indietro, non abbiamo delle strutture, lascia stare le politiche, lascia stare i governi, i ministri, non abbiamo delle strutture consone, abbiamo delle situazioni fatiscenti e inerziali e dobbiamo muoverci più velocemente di quanto il pur pigro pubblico non si muova esso stesso, forse anche inconsapevolmente. Quindi io sono convinto che le cose che verranno non sono strologabili adesso, non sono intuibili adesso, sono già in corso alcune ma altre no, e quindi sotto questo aspetto abbiamo visto un'annata comunque di grandissimi film sparsi, altri che dovrebbero arrivare, quelli non si fermeranno. Chiudo dicendo che il mondo e l'Italia soprattutto se ne continua a muovere, nonostante i problemi economici e tutto, di festival, alcuni dei quali sono anche fruibili gratis, specie nelle serate estive, in tanti piccoli centri che non hanno cinema se non a 40 km di distanza. Benissimo, quindi non si è mai visto tanto cinema, non voglio parlare delle serie, che anche lì ce n'è tanto di cinema in alcune serialità. Comunque, non si è mai visto tanto cinema e non si è mai andato così relativamente poco in sala. Beh, anche lì, strutture, politica e industria e le parti in causa devono guardare al di fuori un po' del proprio orto e cercare di intuire qualcosa del futuro. Capisco che è molto difficile, ma se non ora, quando? Maurizio, ci sentiremo nel corso dell'anno. Buon 2023, un abbraccio e a presto. Grazie a voi, grazie, grazie. Con Roberto Silvestri di Film TV per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ben trovato. Ciao, ciao. Dunque, allora, buon anno anche. Allora, in ordine alfabetico. Avatar 2 di James Cameron, che comincia noiosamente ricordandoci quello che però forse 12 anni fa ci siamo dimenticati nel frattempo. C'è una prima parte che è abbastanza riassuntiva. E poi invece entra in una specie di miracolo di ogni scena una sorpresa, e che è probabilmente ispirato dal fatto che lui, come Flaherty, che ci mette 20 anni per lavorare tra 10 mesi prima di darci Nanook, beh, lui ci ha lavorato 12 anni nel mare, nelle profondità del mare, e ha scoperto delle cose che noi umani non abbiamo mai visto. E quindi Avatar 2 è vero che ha riportato tutti al cinema, perché effettivamente è una magia di sorprese, secondo dopo secondo. Bones and All di Luca Guadagnino. Ma intanto perché Guadagnino riesce a fare quello che nessun cineasta italiano ha fatto nella storia dell'umanità, cioè un film americano. Riuscire a fare un film in America, su un set americano, senza copiare, senza citare e senza appoggiarsi a qualcun altro, beh, insomma, è una cosa incredibile, una novità straordinaria. Oltretutto, sui cannibali, sul cannibalismo, noi siamo leader mondiali, perché la trilogia, non solo Cannibal Holocaust, ma tutto il resto del lavoro di Deodato e anche di altri cineasti come Lenzi, come Martino, che come tanti altri che hanno elaborato sui cannibali, insomma, fanno parte di una storia culturale che ci appartiene. E detto questo, il cannibalismo di Guadagnino è assolutamente sorprendente, ha a che fare più che altro con le questioni dell'identità che ci opprime, no? Cioè la comunità ci dà dei valori, delle cose con cui noi dobbiamo fare i conti combattendo, che siano esse l'italianità o il cannibalismo, è la stessa cosa, no? Quindi è una cosa di apertura all'altro, molto importante. Si tratta di Martin Spielberg. Ma questo è interessante per due motivi, secondo me. È una specie di film alla Bellocchio, quando lui ci dà un po' le chiavi per entrare nella sua estetica. E anche in questo film Spielberg ci dà le chiavi per entrare nel suo mondo. Ora, la cosa può essere forse non importante dal punto di vista del mega spettacolo, infatti il film può andare anche male, ma è bellissimo perché è come se rischierasse tutti i film precedenti di Spielberg, e ci fa capire come le questioni legate alla sua storia familiare, privata, i suoi drammi familiari privati, entrano soprattutto nei suoi film politici, che sono dei film politici che hanno molto sfondo privato, molto sfondo intimo, che sono Lincoln e i rapporti con la famiglia, più che con la storia. Invece le questioni che riguardano il razzismo, l'ebraicità, le questioni diciamo politiche di fondo che lui ha attraversato nella sua vita, soprattutto nel college, sono quelle che sono chiave dei suoi film diciamo più spettacolari, più giocattolo. E quindi quanto siano seri i film giocattolo e quanto siano familiari e intimi i film seri, politici, storici. Nicole Spitzia, beh, Paul Thomas Anderson, qui come se facesse un salto indietro, no? È un suo film moderno, no? Lui che è stato un film del cinema postmoderno, invece ci regala il suo film più moderno, nel senso proprio le mie avventure da piccolo, un po' come Spielberg, no? Quello che Los Angeles della San Fernando Valley era vivere quella società, quella metropoli, quell'ambiente, un giocattolo meraviglioso, una specie di auto Disneyland fantastica. E poi, beh, il film che veramente mi ha più colpito quest'anno, alla fine di tutto, è Senta Omer di Alice Diop, questa regista franco-senegalese che ci offre sì una specie di tragedia greca straordinaria, ma insomma soprattutto con una capacità di fraseggio narrativo che coniuga sia le radici del cinema africano, che quello del cinema europeo, che quello del cinema americano, del genere tribunalizio. Insomma. Purtroppo non ho visto Cronenberg, Crimes of the Future, e tra i documentari, beh, in centro abbiamo superato i 5, comunque direi che un film straordinario per l'Italia, Marcia su Roma, il documentario sulla Marcia su Roma fatto da un regista australiano. Dunque, per quanto riguarda la difficoltà ormai di pensare al cinema come sala, la gente non va più al cinema se non probabilmente per, come dice Spielberg, come dicono altri, per i grandi eventi, per i grandi colossal, per il cinema appunto alla Avatar o alla Marvel. Abbiamo visto che gli incassi nella storia ormai del cinema, gli incassi più grossi sono quelli o di Cameron o dei Marvel, dei supereroi, dell'alta tecnologia, che si va al cinema solo per questo, e quindi saremmo condannati, cioè, a trovare tutto questo nelle piattaforme. Forse questo oppure no, oppure invece, a parte i super colossal, andremo al cinema anche perché c'è una controtendenza anche nel mercato americano di questa specie di situazione bipolare, no? Per cui c'è il grande cinema spettacolare, però c'è anche un grande cinema spettacolare interiore o più estetico che forse può rappresentare un altro mercato parallelo. Roberto, ci sentiremo nel corso dell'anno, buon 2023, un abbraccio. Grazie. E a presto. Anche a voi, ciao. Con il critico, docente e regista Francesco Crispino, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022, ben trovato e auguri. Buongiorno Federico, buon 2023 a te e a tutti i radioascoltatori, ben trovati. È stata un'annata, secondo me, con alti e bassi, naturalmente poi tutto è partito in ritardo rispetto a quella che sarebbe stata la programmazione prevista. Mi sembra che comunque nel corso dei mesi, nella seconda parte dell'anno, le cose siano andate meglio, sempre meglio, anche quest'ultimo mese per il ritorno in sala, insomma, riusciamo ad avere qualche elemento in più per avere un giudizio positivo, perché altrimenti sarebbe stata un'annata molto complicata dal punto di vista della fruizione cinematografica. Speriamo che questo trend delle ultime settimane si possa mantenere e che insomma il 2023 ci riservi altre opere importanti, ne sono annunciate diverse molto attese, e speriamo che poi appunto queste attese vengano mantenute. Rispetto ai film, ai titoli che sono usciti, come dicevo, sono stati alti e bassi. In particolare molti dei film più importanti, secondo me, si sono concentrati al concorso di Cannes. Qualcosa anche l'abbiamo visto a Venezia e qualcosa l'abbiamo visto proprio in quest'ultimo scorcio di stagione, che sono usciti dei film molto importanti, uno dei quali tra l'altro entra nella mia cinquina. Potrei partire proprio da qui. Allora, il mio primo film, il mio primo titolo, naturalmente vado in ordine sparso, è proprio un film che è uscito da pochissimo in sala, è l'ultima grande, magnifica opera di Mr. Steven Spielberg. Sto parlando di Fablemans, che è forse il film più autobiografico di Spielberg, è una sorta quasi di summa del suo cinema ed è una grande storia appunto sul cinema, sul suo potenziale, sulla sua forza di incidere l'immaginario e di far capire allo spettatore come capirsi, come soprattutto comprendersi. Film che ha, secondo me, alcune sequenze meravigliose che restano proprio nel cuore e proprio nel ricordo di questa annata cinematografica. Con Fablemans, in qualche modo, mi viene il collegamento quasi naturale con un altro grande film che abbiamo visto presentato a Venezia quest'anno e poi in sala, perché esattamente come dei Fablemans l'aspetto metacinematografico è quello che li raccorda, anche se i due film sono molto lontani. Sto parlando degli Orsi non esistono di Jafar Panahi, regista iraniano che è stato costretto a lavorare negli ultimi tempi da lontano, e proprio da lontano è l'elemento che caratterizza questo film, perché è proprio lo stesso Panahi che si mette in scena e racconta da remoto come si può girare un film in una zona particolare dell'Iran che è al confine con la Turchia, e lavorando proprio sul confine sia fisico sia metaforico, sul rapporto appunto che c'è tra la realtà e la finzione, ma anche su ciò che si può filmare e su ciò che non si può filmare, quindi tra il visibile e l'invisibile. Un'opera veramente molto potente, che forse racchiude tutto il senso del cinema di Panahi e tutto il senso di questo particolare momento storico vissuto dalla società iraniana. Il terzo titolo che ho messo in questa cinquina è un altro film summa di un discorso poetico. Ecco, un po' come Spielberg, un po' come Panahi, anche Crimes of the Future di David Cronenberg è un film che racchiude un po' il senso di tutto, di gran parte del cinema dell'autore canadese, uno dei, insomma, dei grandi autori degli ultimi 50 anni espressi dal cinema. Ma qui, ecco, è un film che intanto segna il ritorno alla regia dopo 8 anni e soprattutto segna il ritorno alla cornice del body horror dopo addirittura 20 anni da parte del cineasta. È un ritorno alle origini che però vale come una sorta di aggiornamento del discorso sull'inorganico. Insomma, Cronenberg è stato uno dei precursori da questo punto di vista, ma soprattutto un discorso sul corpo, che in qualche modo è una delle ossessioni del cinema di Cronenberg, che qui si fa invece un discorso anche sulla contemporaneità, su come il corpo e la sua mutazione sono inseriti nella contemporaneità. Un grande manifesto di arte contemporanea in cui, se Cronenberg sembra dirci che il tempo della nuova carne è finito e che però chi sopravviverà a questo tempo avrà sempre più fatica a restare umano. Gli ultimi due titoli che vorrei segnalare, che metto nella mia cinquina, il primo è l'ultimo, l'ennesimo grande film dei fratelli Dardenne, Torri e L'Occhità, un film di una secchezza e di una forza emotiva fortissima, come sempre il cinema dei fratelli Dardenne è molto riconoscibile. Davvero che c'è chi dice che fanno sempre lo stesso film, però c'è da dire che anche se il modello narrativo, lo stile sembra lo stesso, anche in Teoria della vita il colpo arriva con la stessa forza, con la medesima potenza dei loro grandi, grandi film. Qui i due protagonisti sono Torri, forse il protagonista bambino più giovane del loro cinema, e la progressione narrativa è di quelle che lasciano veramente senza fiato. L'ultimo titolo, me lo sono lasciato per ultimo perché è un titolo italiano, e sono felice che in questa cinquina entri un titolo italiano in un'annata che, insomma, anche per il cinema italiano non è stato particolarmente felice, sicuramente non come quella precedente, ma al suo interno ha sviluppato 2 o 3 opere importanti, e una da queste è appunto Esterno Notte di Marco Bellocchio, che in realtà è un è nato, è stato concepito come una serie TV, è uscito in sala in due parti, divise in tre puntate l'una, e anche questo segna un ritorno, è significativo questo, il ritorno di Marco Bellocchio al caso Moro, dopo 20 anni dal capolavoro del 2003, Buongiorno Notte, e soprattutto un ritorno a raccontare gli anni 70 attraverso tutte le loro contraddizioni, le loro angosce, le loro fobie, un'opera quasi monumentale che assume diversi punti di vista di alcuni dei personaggi che sono stati protagonisti di quella vicenda, ma soprattutto un'opera che rappresenta il fuoricampo, o meglio l'esterno, appunto, di Buongiorno Notte. Se Buongiorno Notte era tutto ambientato nella prigione del popolo di via Montalcini 55, qui invece il racconto, appunto, si articola tutto al di fuori della prigione, ma è un racconto che ci restituisce tutto l'inconscio e tutto l'immaginario che proprio in quel particolare momento, un momento che ha segnato la nostra storia, la storia di questo paese, diventa veramente il racconto di tutte le pulsioni che hanno accompagnato questo momento di passaggio. Questa, insomma, è la mia cinquina. Poi c'erano purtroppo tanti film che avrebbero meritato di entrare, ma insomma poi cinque sono veramente pochi. Ti chiedo impressioni, riflessioni sullo stato dell'arte del cinema come esperienza collettiva. La prima riflessione nasce chiaramente da una constatazione di natura storica, perché è chiaro che il 2022, l'anno che si è appena chiuso, ha segnato un importante ritorno. Parlavamo di ritorni a proposito di film, ma il vero ritorno e il più importante è quello appunto della visione in sala. Dopo tanti mesi siamo stati costretti appunto a essere lontani dalla sala. Quindi la prima impressione è chiaramente un'impressione positiva. Poi se invece andiamo ad analizzare i numeri, vediamo che la sala è forse più di qualsiasi altra espressione artistica ha sofferto questa situazione, tant'è vero che il ritorno sembrava quasi impossibile o comunque assai complicato. Pian piano stiamo vedendo che qualcosa si sta muovendo, e in particolare credo che sarà importantissimo coinvolgere le generazioni dei giovani a tornare ad apprezzare lo spettacolo in sala. Quindi lo stato dell'arte è fortemente determinato dalla visione in sala, come appunto ci insegna gli incassi e le presenze che stanno dando ad Avatar 2, il grande successo di pubblico. E quindi il 2023 secondo me è un anno decisivo per il cinema, per tutto il comparto dell'audiovisivo, perché se si dovesse tornare ad una visione più frequente della sala, allora torneremo a vedere anche delle opere più complesse, più stratificate, più ambiziose, che magari rischiano di più. Se così non dovesse essere, dovesse essere convogliato tutto sulle piattaforme, che sembravano fino a un certo punto, e ancora adesso sembravano aver preso la mano, rischiamo di avere un appiattimento dal punto di vista merceologico e produttivo. Il famoso Algoritmo, che è una delle serie TV di maggior successo degli ultimi tempi, ci ha urlato contro. Dicevo, appunto, il famoso Algoritmo rischia un po' di appiattire tutto, e questo è quello che sarebbe un po', non dico la pietra tombale, ma sarebbe un colpo di scure molto, molto forte sulla capacità espressiva del cinema, che quest'anno, esattamente come negli anni precedenti, ha dimostrato di sapersi continuamente rinnovare, di guardare, insomma, alla contemporaneità con una complessità di sguardi. Questo ci lascia ben sperare. Francesco, ci sentiremo nel corso dell'anno. Buon 2023, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te, Federico, e naturalmente buon 2023 a tutti i radioascoltatori. A presto. Con Fabio Ferzetti, critico dell'Espresso, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Auguri e bentrovato. Auguri a tutti voi, auguri a te Federico. Ma i 5 film sono sempre difficilissimi da scegliere, perché in realtà è stata come sempre un'annata molto buona. I film belli e molto belli se ne sono visti tanti, quindi io fatico molto a eleggere i 5, ma comunque l'ho fatto. E non in ordine, anche se forse il primo è veramente il primo, è Saint-Omer di Alice Diop, che è stata la folgorazione dell'anno per me. Magnifico film che apre proprio un sguardo su un mondo e un modo di fare cinema completamente nuovo. Naturalmente Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, magnifico, irriverente, inventivo, degli anni 70, mai esistiti, ma più veri del vero, un amore assurdo, sbilenco, bellissimo, che tutti sogniamo di aver vissuto. Naturalmente, inevitabilmente, The Fablemans, perché è un film perfetto, di Steven Spielberg. Nel derby iraniano tra Jafar Panahi e Mohammad Rasulov, io preferisco di poco, di misura, Il male non esiste, di Rasulov, per la classicità che mette in queste quattro storie, quattro episodi che ruotano intorno alla pena di morte. Credo sia un film che resterà molto, molto a lungo con noi. Oh, poi c'è un film trascuratissimo che ha diviso, che ha spaccato, di cui ci si è rapidamente dimenticati e sbarazzati, ma io l'ho trovato un grandissimo film di un grandissimo regista tornato alla sua forma migliore, ed è Crimes of the Future di David Cronenberg. Per me è una specie di summa di tutto quello che ha fatto, forse per questo, perché è troppo rivolto all'indietro, ha molto diviso, soprattutto ai giovani, giovanissimi, non è stato proprio accolto, invece secondo me è un grandissimo film. Ma ce ne sarebbero moltissimi altri. Perché il dramma che continua a crescere nelle sale italiane è la velocità fulminea con cui transitano, finché una volta avrebbero fatto anche incassi, se non ragguardevoli, così del tutto onorevoli, insomma, comunque avrebbero avuto il tempo di lasciare una traccia, invece adesso passano le meteore e finiscono poi su piattaforme, o a noleggio, o non finiscono da nessuna parte, film anche bellissimi, da Wistrean, Tra due mondi, di Carrera, da Finale a sorpresa di due argentini, fantastico, con Banderas e Penelope Cruz, Stringimi forte di Matteo Amalric, I ceri di Alice, esordio di una regista franco-libanese straordinario, con Alba Rohrwacher. Vabbè, di Ennio non possiamo dire che sia passato in vano, perché ha avuto un grande successo, per fortuna, ma non so, restando in Italia, Leonora Addio di Paolo Taviani, quasi non pervenuto, ed era un film importante, L'ombra del giorno di Piccioni, uscito alla Chitichella, buttato via in pochi giorni, peccato. Alcarras, per spostarci in Spagna, anzi in Catalogna, altro film importante che ha vinto Berlino, ma insomma passano tutti un po' in cavalleria, questo è veramente un peccato. Poi è Lolita dei Dardenne, La vita è una danza di Clapisce, la lista è lunghissima. Ecco, proprio in questo senso ti chiederei anche qualche impressione, riflessioni sullo stato dell'arte del cinema come fruizione collettiva. Sotto gli occhi di tutti, vediamo tutti sale molto piene quando il gestore della sala o la distribuzione o l'autore, insomma, sono presenti e incontrano il pubblico. Io ho partecipato pochi giorni fa al Troisi a un dibattito con Re, sa presentare, dimenticato, un altro film notevolissimo, ma appunto semiclandestino, un po' per volere dello stesso Ezza, che si vanta di aver citato una distribuzione, perché è un pazzo, una distribuzione regolare, per essere con tutti e due i piedi piantato nell'indipendenza assoluta per un film su Cristo, ma anche contro Cristo, dice, io voglio la libertà assoluta e lo faccio porta a porta, e quando c'è lui le sale sono piene, il film è fantastico, la gente è felice di incontrare l'autore insieme al film, ma le sale devono tornare a essere luogo di incontro. Io, come non mi stanco di dire, un cinema non è uno schermo, è una cassa, questo gli esercenti se lo devono ficcare bene in testa, un cinema è un luogo di incontro dove si fanno altre cose oltre che vedere film, ci si incontra, si discute, si parla, si beve, si mangia, ci si collega magari al computer o col telefono, a un wifi fornito, insomma, si vedono, che ne so, mostre, si consultano libri e riviste. Quando i cinema torneranno, molti cinema sono già così, ma non abbastanza, evidentemente. E per il resto poi certo la visione casalinga, domestica, poi a scopo professionale è ormai insostituibile, ecco, poter vedere un film, fermarlo, tornare indietro, rivedere una scena, ripassarlo dopo la prima visione, beh, è fantastico, credo che anche per molti spettatori poi ormai abituati al binge watching, alle serie, alle abbuffate, però certo il piacere della sala, della scoperta, dello sconosciuto accanto, della reazione, della risata che ti contagia, dell'emozione che senti palpabile o che invece ti stupisci che non arrivi, che magari arriva a te e non al resto della sala, invece questo per me temo che sarà sempre più riservata appunto a chi va per festival, infatti i festival si moltiplicano un po' in tutta Italia, sostituiscono le sale di primissima e invece anche di seconda e terza visione, che prolungano la vita di tanti film che avrebbero meritato un passaggio un po' più consistente. Fabio, ci sentiremo nel corso dell'anno, buon 2023, un abbraccio e a presto. A prestissimo Federico, grazie. Ciao. Dopo quella di giovedì 29 dicembre 2022, seconda e ultima puntata per stabilire i 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. I miei sono stati Una mamma contro George W. Bush di Andreas Dresen, 200 metri di Amen Naife, Martin Luther King vs. FBI di Samuel D. Pollard, Un eroe di Asghar Farhadi e Kurbun essere curdo di Fariborz Kamkari. Siamo stati in 16 tra critici cinematografici, direttori di festival, distributori a esprimere le nostre preferenze. Soltanto 3 le donne che hanno dato disponibilità. Lo scorso anno erano state la maggioranza. Questi i risultati finali. 13° Avatar 2 di James Cameron con 1 voto e 2 menzioni. 10° Crimes of the Future di David Cronenberg con 2 voti. 10° a pari merito Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Shine con 2 voti. 10° a pari merito Saint Omer di Alice Diop con 2 voti. 9° Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio con 3 voti. 7° Nostalgia di Mario Martone con 3 voti e 1 menzione. 7° a pari merito Piccolo Corpo di Laura Samani con 3 voti e 1 menzione. 6° Fairy Tale, una fiaba di Alexander Sakurov con 3 voti e 2 menzioni. 5° Bones and All di Luca Guadagnino con 4 voti. 4° Gli Orsi Non Esistono di Jafar Panay con 5 voti. 3° Esterno Notte di Marco Bellocchio con 6 voti e 3 menzioni. 2° Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson con 7 voti. 1° The Fabelmans di Steven Spielberg con 10 voti. Con Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville, che ha cambiato sede per presentare il nuovo spazio e la nuova rassegna dal 5 gennaio 2023. Bentrovata. Bentrovati, bentrovati tutti noi, grazie. Intanto un grande augurio per la fine di questo anno, che coincide anche con l'inizio di un nuovo corso del piccolo Cineclub Alphaville, che si è trasferito veramente da pochi giorni, sempre molto vicino alla sede storica di via del Pigneto 283. Ci siamo trasferiti nel cuore proprio antico del Pigneto, in via Romanello da Forlì 30, in uno spazio che ha delle luccicanze tipiche dello spazio storico, che lo ricordano proprio, però vive una dimensione addirittura 3 livelli, piccolo piccolo ma 3 livelli. Devi venire, Federico, a vedere, certo, questo spazio. È uno spazio molto accogliente, seppure chiaramente un pochino più contemporaneo, fatto di piccole attenzioni, di insonorizzazioni, era un vecchissimo bar del Pigneto che poi nel corso del tempo è diventato anche la sede della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, a cui Alphaville appartiene dalla sua origine, e che poi è diventato ormai da 2 anni sede in Fieri, adesso finalmente in facto del nostro Cineclub Alphaville. Continueranno le programmazioni che abbiamo sempre realizzato con gli eventi. Certo, avendo 3 livelli è possibile fare più cose addirittura contemporaneamente. Questo è un sogno, e comunque devo ringraziare la persona che ha creduto nell'Alphaville e nei miei progetti, nei miei programmi, e che ci ha regalato questo spazio, che è mia zia, che ha sempre fatto parte del Cineclub. La ringrazio moltissimo, perché senza di lei il percorso sarebbe stato sempre in salita. Adesso è sempre in salita, ma più tranquillo. Partite con una rassegna, e le rassegne dell'Alphaville non si fermano mai. Dal 5 gennaio, raccontaci. Ho pensato sempre con in mente appunto Pino, che non c'è ma che ci accompagna sempre nel percorso cinematografico che ci piace di più. La rassegna è dedicata a molte cose, soprattutto sono fiera e felice di dedicare l'origine di questa rassegna, tra l'altro che ha come titolo And Happy New Alphaville al posto dell'Happy New Year. Comunque questa rassegna ha come inizio proprio 4 giorni, da giovedì a domenica alle ore 21, dal 5 al 9, dedicati a Catherine Hepburn, che quest'anno è in totale 2 anniversario, ed è un anniversario importantissimo, non tanto per la figura hollywoodiana di questa diva del cinema degli anni 40, degli anni 50, che ha portato davvero un nuovo corso nel cinema americano della commedia e che è stata protagonista principale della commedia sofisticata americana, tanto per dire Scandalo a Filadelfia, ma è stata una donna che al di là di tutto questo è stata anche capace però di rappresentare una figura non propriamente lustrini, paillettes e biondi platinati, così come erano le donne, appunto, le attrici di quel periodo storico negli Stati Uniti, lo star system. No, lei è stata anche la donna dei pantaloni, la donna indipendente, la donna che ha voluto portare avanti certe battaglie sociali. Per esempio, noi inizieremo 5 gennaio con La costola d'Adamo, in cui insieme con il compagno di una vita Spencer Tracy affronta un tema legale con un figlio, una determinazione che non si erano visti fino ad allora naturalmente all'interno del palinsesto hollywoodiano. Quindi no, sono molto felice per la Catherine, sono molto felice perché è davvero capace di dar corpo a delle manifestazioni che potremmo dire pre-filministe addirittura nella storia del cinema hollywoodiano. Faremo vedere 4 film, appunto La costola d'Adamo, Scandalo a Filadelfia, Primo amore e Susanna di Howard. Tra l'altro i primi due sono legati a George Cukor, che è stato uno dei più grandi registi, appunto, anche lui in onore d'anniversario, lo faremo quanto prima, dei più grandi registi della commedia sofisticata, quello che si chiamava il regista delle donne, e appunto tra queste donne ha scelto 9 volte come protagonista la stessa Catherine. Quindi mi sembra un inizio molto folgorante, che ne dici? Certo. Presenterà questa rassegna quasi sempre, penso, all'inizio ma probabilmente anche alla fine, ci sarà per tutto il percorso il nostro amico Rosario Tronnolone, che insomma di dire e di registi e di produzioni italiane è davvero un esperto. Poi nel corso di questo mese non ci vogliamo perdere niente, abbiamo una rassegna che si chiama Alfa Verde, i compleanni di Alfami, che è legata a pellicole d'autore grandi nella storia del cinema e sempre verdi, appunto, che compiono degli anni tondi tondi e che, come ho detto nel sottotitolo del titolo, però non dimostrano per niente una forma di anzianità, anzi tutt'altro, sono sempre molto vivaci e bellissime da vedere e rivedere. E ho scelto Gli uccelli di Hitchcock, che è il capolavoro assoluto di ansia, di spavento e di spettacolo veramente, che fu appunto girato nel 63 da Hitchcock e che ancora oggi insegna tante cose a chi lo guarda e anche a chi deve realizzare film di tensione, perché il montaggio, la tensione che si respira in quel film è pazzesco. Poi abbiamo pensato di far vedere un film del 1943 italiano, forse alcuni storici del cinema, tra cui anche me, ritengono questo film il primo film probabilmente di un regista italiano. Parliamo di Ossessione di Luchino Visconti, da James Caan, da cui poi furono fatte dei remake, Un postino suona sempre 2 volte, sia quello con Lana Turner che quello con Jack Nicholson e Jessica Lange, però l'origine è La bassa padana ed è appunto Ossessione di Luchino Visconti, un capolavoro assoluto, una pietra miliare nella storia del cinema neorealista e non soltanto, da rivedere. Poi il giorno dopo passiamo direttamente a Pollina alla spiaggia di Eric Romero, un film del 1983 tra Molière e Marivaux, una storia di amori, di spiaggia, di sole, di settembre. Romero è nel mio cuore e penso che sia nel cuore di molti spettatori cinematografici. E poi abbiamo un film di nuovo del 63, questo sempre italiano, Rogo Pug, Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti, autori importantissimi per un film di episodi, come si usava spesso fare una volta, perché i produttori e i distributori anche non volevano impegnarsi molto su certi autori che in qualche modo potevano risultare difficili al pubblico, agli spettatori dell'epoca, per 4 appunto mediometraggi notevolissimi. Il più notevole secondo me di tutti è La ricotta di Pierpaolo Pasolini, che appunto fa parte di questo gruppo di film. E con questo chiudiamo la rassegna dedicata ai compleanni cinematografici e alle pellicole che compiono gli anni quest'anno, però apriamo 2 settimane di film capolavori assoluti con la nostra dicitura La libertà di Alfa, Alfa Libre, che è appunto un scegliere pellicole l'una per l'altra importantissime nella storia del cinema da vedere insieme anche in questa nuova saletta tutta colorata di bianco, nero e rosso, nel nome della saletta che è Alfa, che prende spunto dall'Alfa Village Telemica Show Mission Alfa di Godard, che salutiamo e ringraziamo tantissimo per averci concesso, insomma, anche se lui non lo sa, il nome di questa saletta che continua sempre al Pigneto. Faremo tutta una serie di film dedicati anche agli 80 anni di Davide Cronenberg con il premonitore Videodrome, Alexandro Sokurov con Francofonia, che è un film bellissimo sull'idea di salvare l'arte attraverso due figure, una opposta all'altra ma unite insieme appunto dall'idea della bellezza. Viveri di Kurosawa, che forse è una delle esperienze più significative che adesso è stata ripresa anche al cinema, quindi davvero uno spettacolo da non perdere assolutamente per chi non l'ha visto. Il cielo può attendere di Ernst Lubitsch, una commedia veramente deliziosa che di questo periodo non fa mai male, questi film evocativi, divertenti, deliziosi, che in qualche modo ci fanno passare un'ora e mezza dimenticandoci un pochino di tutto quello che è intorno a noi, e che non è poco. Poi c'è una serata dedicata a Jean-Marie Straub, che è morto il 20 novembre, mi pare. Io ho scritto anche un articolo, come è mio solito ogni mese, questo di questo mese, su Diari di Cine Club, è un articolo dedicato a Jean-Marie Straub che potete consultare gratuitamente online. Ho scelto di far vedere Sicilia perché Jean-Marie Straub con la moglie Daniele Oyer visse a Roma per molto tempo e si appassionò moltissimo all'Italia e ai nostri scrittori italiani, tra cui Cesare Pavese e Elio Vittorini. E questa Sicilia è un omaggio appunto dedicato da Straub a Elio Vittorini. E poi abbiamo di nuovo George Cukor con Angoscia, un film bellissimo, un melon particolare dato tutto alla capacità attoriale della Ingrid Bergman. Il Corvo di Clouseau, che è un film sulla provincia francese davvero ancora oggi molto inquietante e molto appassionante da seguire. E poi l'ultimo, che è un film invece più recente, che comunque insomma è in anniversario perché fu premiato al Torino Film Festival del film del 2003, di Anne di Kekish, un film bellissimo sui sobborghi parigini, sull'amore e sulle diversità, un film contemporaneo ancora oggi a distanza ormai di così tanto tempo. Chiuderemo con Marcello Convertini, che è un nostro associato, che è dedicato ad Alphaville, una partitura musicale davvero sorprendente, suggestiva, che facciamo sentire ogni volta che si arriva all'Alphaville. Ci lasci tutti i riferimenti internet della nuova sede? L'Alphaville Cine Club si è trasferito quindi da via del Pigneto 283 a via Romanello da Forlì 30. I numeri di telefono, i contatti, le mail sono sempre gli stessi. Noi vi aspettiamo lì dalle ore 21 del 5 gennaio 2023. Io aspetto anche te, Federico, naturalmente. Un abbraccio, Patrizia, a presto. Grazie, Federico, e tanti auguri di buon anno, di felice 2023 a tutti noi. Grazie, grazie, Federico, grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.